perché c'ha un antennino di macchina lui. Per curiosità, visto che più o meno sento lo stesso, è una curiosità tutto. Può darsi che ti senta pure. E forse già lo sentirà poco a poco. Vabbè, Manuele, ci sei? Mi dica. Allo senti Adriano. Sta passando Adriano. Ciao Manuele, ma mi ascolti? Io ti ascolto passo passo, è una mia curiosità. Se mi ascolti che ho mirato. No, io ti sento, 8 radio 5. Cazzo, non è possibile, con un pezzo di virus. Si scende Adriano. Cosa ha detto? Santiago 8 radio 5. 8 radio 5, arrivi Adriano. Da Manuele. Dimmi tu, con un pezzo di filo. La faccia di lunga. Gira di più forti tu, a Manuele che io. Ah vai. 8 radio 5, va bene. Ci ha detto che il diplomo fa da corso, da direttiva. Manuele, io come ti arrivo? Sono 9:15. Se penso a pochi, tu siete cose con un pezzo di filo e con l'antennone. Vabbè, il segnale non è giusto, con l'antennone è giusto ora. Cappa. Andrà bene. Roberto, sei rientrato? Roberto mi sa che è giù la fame buraetto. Poi vi voglio prendere, Adriano, quel formaggio piccantino fuso, che lo spammi nel pane, mamma mia. Ma che c'è mia? Uia. Tu mia, Tore, ciao Tore. E buonasera a tutti. Io penso che la glicemia si è andata a cinema, quando mangi roba buona così, quando tu lo desideri, guarda il corpo, dice dammi. Non è così, no. Anch'io l'ho provato, è puro, zazzata. Natali. Poi. Ventisatore. Adesso sono arrivato, mi ero spostato per aprire alla 50. Cappa, io ho parlato del formaggio fuso piccantino, dice quella glicemia alza. A me non ammazzano, a me mi tira sulla pancia. Tipi diversi di diabete sono, dai. Vuol dire, pure a me, secondo mi sale poco a me, lo stesso. Però bisogna che ti la migrave e mangiare poco poco, qualche cosa è latta. A me mi ha detto Gianni, pure senza mangiare latta. No, io l'altra sera per esempio mi sono fatto uno di quei pane pagnotta mi fatto a fetti, buono, poco buono, che mi piace troppo. Poi, leggermente umidito, olio d'oliva, un po' di sale vino, pomodori, alici e caperi, canto mi è piaciuto Natali. È buono, io non ne mangio il pane perché i suoi mi vanno a fare la glicemia a me. Io ne mangio, da un panino ne mangio mi dai, e da chi sa mi dai ne capo la mollica a me. Anche io quando mi posso la baghetta con la mortadella ne capo la mollica, è tutto, cosa ne pensi? E da mortadella da bui, eh? Ma chi sa in confezione o chi sa quella sfusa? La sfusa, confezione non ne compro mai, ha fatto affette col pistacchio che sono buonissime. Aspetta che ti mando un avanti un amico, adesso lo senti, mangia lo senti per forza, avanti Adriano. Sì che l'ascolto Adriano io, e cazzo se non ascolto lui non ascolta nessuno. E col di polo Lo so che è col di polo, è dall'altro giorno che l'ascolto. Avanti Adria. Ha detto che sei portato a mangiare un panino. Ma già, vedi, la fai pure di giunta, è tutto scontaggiato. Non me ne dire a me. Certo, canale 5, canale 6. Altri voi. Vabbè, che faccio un bocca a voce oggi. Freddo abbigliato. Deve essere che ho preso il colpo d'aria, mi dovevi... Faccio pure un mezzogiorno. Vabbè, Uriaia. Avanti, Natali. Ciao, Tore, buonasera. Però qualche donna col culo sto fermo. Non me ne vado di parolacci, che oggi è fritta. Manuè. Sì. Sei giovane da sola, a mangiare sei andato, eh? Sì, stavo aspettando un po' il salame. Hai visto che c'è il tuo vicino c'è? Sì, già lo sento, Tore. A Tore lo sento anche quando si affaccia dalla finestra. Penso a poco. No, così non mi intendi tu a me, che se mi intendi di che rendi. oggi? Giulia, che andiamo, dai, andiamo bene. Ma mi sentite? Sì. Sì, tutto chi? Oh, la voce sto dicendo. La voce. Già, si sente bene anche la voce. Oh, anche nella rete mi intendo tutta... Oh, non lo so manco io. Andrea, sei entrato. Vieni che stavo comprovando una cosa. Stavo comprovando che il sito di Polo è stato... Nord e Sud. Dopo, voglio per volta guardare la cartina. La domanda se è favorevole o no a Nord e Sud. Sono un attimino le idee confuse. E io dovrei essere dunque... Fammi pensare, Stettino ce l'ho quella parte, che sarebbe a nord-ovest, e io sono più o meno verso nord-est poco poco, dovrei essere all'incirca. No, tu sei a sud-est, che è meglio. E quella sud-est è per dire, ma come faccio a essere sud-est io? Ah, che c'è la batteria montagna. E beh, è che la montagna non può essere nel nord. Allora, si ricorda che Sassari si trova a nord-ovest della Sardegna. Sassari si trova a nord, però tu sei, non sei al nord, sei a sud-est, sì, sei andando a Santa Teresa. Sud-est, e beh, ho già aiutato una. Sud-est, perché io ho un vecchio cazzacciato praticamente. Esatto, quindi è così. E Adriano, bisogna vedere di Polo come ti è lanciato. Ho aiutato nord-sud, con i bracci a sud-est, i bracci non ricevo più che c'era nord-sud. Adesso guardo la zona lì, a cosa corrisponde. Ma quello si sta a vedere se è possibile che arrivo così alto, 8 a quel ragazzo là che sarà finito. Ma perché non si mette di volo anche lui? Punta verso la parte di Sassari, puntalo. E vedrai che ti arriviamo ancora più forte. Ma noi perché non ti metti di polo? Non ti dico che l'avevamo fatto tu. Forse l'abbiamo fatto male, forse la breccia buru. No, sì. Bisogna farlo comunque, Emanuele. Motivo se pompa di più. Ma io c'è il palazzo davanti. E lui è primo piano, il palazzo suo di 7-8 piani, il patron conto, Adriano, è dove, primo piano. Sì, vabbè, io sono al secondo piano, che cazzo c'è. Secondo piano però è un ricco, non va bene. Secondo piano è un ricco, nel buco del culo di Gesù. E poi? No, ma tu non potresti essere, mi sembra assurdo. No. Tu ce l'hai perché quel vicolo ti dà verso Monte Rosello, quindi se la posizione mia è giusta alla tua, ecco perché ti arrivo bene. Guarda i coglioni, da verso Monte Rosello però non sa bene che di Polo riceve a 90 gradi. Da verso il Monte Rosello così mi arrivi di fianco, teoricamente. Dobbiamo guardare la cartina come si. Comunque lo prendi di fianco, però la linea più o meno siamo lì. Dimmi una cosa, ringhiera c'hai? Adria! Io ringhiera? Perché? Allora attacca la massa alla ringhiera e il pezzo del fieno lascialo scoperto, vedrai che ti arrivi ancora più forti. No, ringhiera non ce n'è, per soltanto ringhiera e i contrappesi. Guardate, sono altri due di puri, guardate, un di polo con quattro braccia. E dovresti occuparti tutta una camera, dovresti occupare, girando dentro la camera, appeso. Sì, infatti, un braccio è fuori di strada, altri due bracci sono fuori di strada e un terzo dentro casa. Allora, sono curioso di sapere dove cazzo... Come sono orientato? Perché direttivo è direttivo, questo è un po' come sicuro. Ma ce l'hai quelli di furia, a V ce li hai? Sì, a V. Ponte Rosello, dove ci ho puntati, verso uno produttore o sorso o signori, uno parte signori e uno parte sorso. Sono curioso, guardo sulla cartina direttamente, quindi lo guardo come esattamente, perché visto così, in effetti, sembra facile, lo guardo, in effetti, parte la Ponte Rosello e arriva verso sorso, questo sorso, la sedoce, quella zona lì. Riprendi Grigio, anda, riprendi tu. Ehi, a Manuele lo prendi perché lui è vicino alla bretella e praticamente lo stai prendendo proprio in pieno. Ma ti piglia a me e attacca da me, si budi. Noi così Manuele. Con XX al telefono. Sì, così perché siamo vicini, sempre nella stessa via. Quindi a noi ci prende come la parte di sorso, ci prende. Il capo che è puntato verso il sorso. No, col centro del dipolo vi sta prendendo proprio. Perché sennò non gli arriverebbe così Adriano a Manuele. No, veramente dovrebbe essere un braccio e un braccio, un braccio puntato alla parte di sorso e un braccio alla parte di Gennari. A te quanto ti arriva? Vedi, a me mi arrivi a Santiago 9, Santiago 9, Radio 5. Vabbè, qua 8. Oh, aspetta, cosa c'è qui di zene? Santiago 7 mi arriva. 7? E la madre da me uno. Vabbè, ma tu non ce l'hai giusto come ce l'ho io. Io sono anche da fuori, la tennina mi arriva a 8, cioè dove arrivare di più. Tra 7 e 8, ma tra 7 e 9 mi arrivi, in mezzo mi arrivi. Infatti è così. È così, ma la macchina ritirata te l'hai? Sì, stamattina sono andata a ritirare, ho fatto i paraurti, i circhi, ho fatto anche i tamburi di dietro, ho fatto i medio pacchi. Infatti è così. Cioè così, ti è uscita bene, no? Sì, va bene, e beh, senta come te la prima. Quasi ruba, si può dire. Un po' di sorriso, ci ha segnato, vedi, della tutti, quando sarà, vediamo. Sì, io mi metto un po' di soldi da parte, la porto il prossimo anno. Se mi porto quello scuro e qualche ritocco mi faccio fare, che c'è da fare. Ah, già va bene, dai, già va fatta bene, tutti geniali. Oh, io mi raggio in lega, che mi raggio gli aggraffiati, Budu. E io sono in lega. Mi raggio graffiati io, ci butti. Una signora me ne è giunta andando qua, a parte sinistra si è passata una macchina edda e me l'ha trisciata un po' garita. Ma trisciata non me ne sono capitata, ma ha passato i segni sui cerchioni. Tu devi vedere come ti sei fasciato una macchina edda. Per la seguo i cerchioni l'ha agganciata e hai fasciato baraurti, lo baravango, hai fasciato e le spoilere che va a rifianchi. Che macchina aveva? E pare una Peugeot, mi pare che va via. Io la giusura agganciata, ma si è agganciata e da me, che mi se ci dà la nostra per mi si è avvicinata e si è agganciata. Vai so. No, cazzo, ho fatto un bando da 1500 euro. Perché le roba da urti io vi l'ho staccato, poi mi ha staccato un pezzo e già è fasciato e è rimasto in terra. Infatti veniva già a corte e vi l'ha aiutato. Poi un pezzo del gozzo del baravango che è in plastica, niente, come ti viraggio. Si è aggrassato a un gozzo e veniva giù strazzato. E allora si trova. Più grossa e più alta. Appunto. Allora c'è che si è agganciata al cerchione, si è agganciata al cerchione come ha girato e ha saltato tutto. Ma mi ha graffiato, mi è rimasto un segno attaccato al cerchione. Vai Natale, che mi ha sentito male. E cappa. E Tony non c'è ancora. Hanno un telefono, se gli è andato. Sì, allora c'è il signore Maravigna, va. Di sicuro, sì. Certo, bebe, che andiamo bene. E ma proprio in giro sarà. Boh, sarà in campagna. Magari trovo in Chivi, c'è notti. Fate verso in Chivi. E allora? 23-25, l'abbiamo accorteggiato. Sarà proprio in campagna, bravo. Quindi Rai 2, 23-25, mi raccomando. Oh, bisogna vedere si entra. La settimana è sempre di martedì. La famiglia magari. Seconda serata con gli scalmani del partito. Era a casa sua. Bisogna vedere a chi c'è sempre in giro. Ah, ma fate vedere. Certo. Ma devo dire una cosa e rimani in giro. Allora sai, mi sono riuscito a pigliare l'appuntamento ma chi sta a visita. Solo che in questo d'ora, chi se mi aveva visitato prima? Ah, va, voglio vedere se ne cava bene, li posso attacchi, li posso a vedere. Ma cosa devi fare da lì? A visitare, a portatore, di che cosa? Chirurgia vascolare. Allora il coso è vicino a Salerno, vicino alla polizia. E c'è anche l'oculista lì. Natali. Sì, mi ero spostato un attimo. Ha detto vicino alla polizia devi andare. Sì, lì è. Lì ci sono andato l'anno scorso io a fare la visita oculistica. L'avevano segnata lì. Ma vai, tiriamo il riso a fare che cosa? Allora mi sono piedi, un piedi, uno solo però, tutta l'anca mi sono fiata. Questo programma? La circolazione del sangue. È la circolazione del sangue se ti sta venendo quello. Le gomici. Il premio mi togliano una cura, non lo so, buio, boh. Lì hai fatti operare, perché c'hai sicuramente le vene ostruite della gamba. No, le gambe sono a posto, ho fatto l'angiotac proprio per la circolazione. Infatti gliela porto e vediamo un po'. Dice che non dipende dalla gamba, che da, io ho un aneurisma surrenale, inizio. E vediamo a vedere se mi operano lì. Però per la circolazione mi rimane da che pastiglia, a che cosa? Sicuramente ti ha non la pastiglia ma la pomata ti dà la pomata come te me la dà da me una volta, invece che dammi ribatti mi ha dato la pomata due giorni e mi era passato il gonfiore e poi non mi è più venuto. Sì, di una voce ma dipende pure da diabete mia, anche dipende. Ehi, a Rusongo. Ma sai chi invece che te la stia provocando? Sì, lo scopriranno loro, no? Io adesso vi porto l'angiotac, che c'è il dischetto e il reperto dei medici. E vedranno loro cosa fare, che ne so. Io non so più un soli, no? Stai andando a vedere quando? A di setti. A Giumai era bello, mi cadi da di 5 la prima impegnativa che mi ha fatto, me l'ha già fatto fare un'altra e l'ha già pigliato l'appuntamento, manco mari. A chi per solo chissu, in tutta la provincia, non ve lungo a fare la visita chirurgica così, vascolare. Certo, ma so proprio delle cose giù. Andiamo, dai. Poi una volta ci ho fatto questa visita, mi prendo notte giurati che si va a fare la visita diabetologica, no? Devo fare delle visite per la visita cardiologica. Lusango proprio all'ultimo, tanto devo andare a marzo. Mesi di prima mi faccio l'analisi di Lusango e da voi ando. mattina sono andato da D'Accordo, sto andando, che ce l'ho prenotata per il prossimo anno, ma quello che c'è in via Armando Diaz da Goggio, mi pare mi avevi dato duro il numero. Ah, da Marungiu. E infatti se devo fare la visita cardiologica mi prenoto lì io, tanto c'hanno tutto nel computer loro, mi fanno sempre l'eco color Doppler cardio mi fanno, e poi mi fanno la visita cardiologica, quindi è tutto completo. Vanni tu Teddy. Io l'ho passata a settembre quella visita lì, l'ho fatta. Il 5 settembre l'ho fatta. Dovevo farla a luglio, invece me l'ha fatta fare a settembre. Me l'ha fatta va. L'ho passata a settembre, adesso ce l'ho al prossimo anno, il 12 settembre. E infatti, sì. Ma io devo fare chissà di luci, mi pare l'abilità cardiologica. E boh. E da voi l'analisi di sangue, giustamente. Se vi sa delle cose, l'oculista, mi pare. L'unico che c'è è quello di Via Tempio, o quello o giù a Porto Torrice. Io l'ultima mi sembra l'ultima l'ho fatta al policlinico io. No, a me me l'ha fatta passare l'anno scorso, me l'ha fatta passare a Porto Torrice. E poi l'ho fatta Porto Torrice, l'avevo fatta quella lì. Poi la controvisita con un apparecchio speciale me l'hanno fatta su in via Tempio da questa signora dottoressa e mi si è eliminato tutto. E vabbè, ma poi mi riprenota la prima Fazzuliccia che ha Pocciodorra, che è più importante. Sì, da poi era diabetologa di Pocciodutto, tutti i risultati. E a me ma ci ha mandato un bacio, ma ci ha mandato, prima mi prende un suma che si già di che va giù. E poi come ho finito quelle mi prendo la nuova, una al giorno di quella nuova. E l'altra che va giù, do tre al giorno. E vuol dire che c'è sta ordinata e migliori. Io pure ne piglio una radi solo di Basiglia e posso risurrire la notte, ci salenta. No, l'ho fatto per la mia dottoressa del coso, il foglio che mi ha dato. È tutto compreso nella pastiglia, ecco cosa è. Lui ha scritto tutto quanto, però è tutto compreso in questa pastiglia qua che devo prendere una volta al giorno. E infatti io la piglio a colazione, invece la notte faccio l'insulina, 6 unità a me ne faccio solo, di quella lenta. E poi vediamo se mi si tiene, quando vado da lui, se mi si tiene bassa. No? Io siccome ho fatto già le cose scritte nel libretto, il viaggio sempre normale, il viaggio che c'è appena 102, 110, 103. E io pure la giussi. Ti spiego cosa significa. Sto mangiando un bel avvio a 89 addirittura. Sì, scatta, proprio. Non si comprende più nulla, no. Speriamo che mi lancia poco sì che hanno durato Edo a verso maggio. Devo chiamarlo a gennaio e prenotarmi. E poi ma ho la prenotazione per aprile o per maggio. Io ho capito. Andrà bene me, da. Ma fra un po' gumagno. E via. Che vuoi che ti dica? Oh, mica ero al telefono, non ero mai niente io. E voi subito piscite che ero bagno del panino. No, io alla detto che si è andato al telefono e Natalina mi ha detto sì, già ne era finito il mio telefono. E con noi stavo facendo lo malizioso, se cazzo siete malizioso, ragazzi, se siete una taliche, involontariamente si è sopravvalutato al contore. Ha giudito ieri innamorando al telefono, io. Ed è vero che tu sei innamorato e paghi sui cari ore malabine al telefono. No, che ero come fratello al telefono, dai, cartucci maliziosi. È innamorato di aprire la ginocchia. Solo che ti dico che dipende quanto mi ami, ma mi ami? Bello peloso. Andiamo, ma peloso sì. Ma sta lì. Sì. Fico se dite il culo. Sì, che poi fischiami. Ma te lo ricordi la volta che è entrato secco secco? Cazzo, io lo difendevo. Ero papitendi con Adriano quando abitavamo vicini. E è entrato secco secco il balcone, è entrato. Adriano, non ti parlare con quello che è froscio. Auccia a me. Suni. Aspetta. Sono del proprio fratello. A tu immagini, io lo difendivo, cazzo. Ha detto i cicosi, ma dimmi tu. Fica se ti dice in culo. Ah, sei a te. Volevo ricordare. Mimì, falcone, grazie, grazie di ribelli. Avevo ricordato. Sì, con un microfono. Ma peloso sì. Ma cosa va via, papero, fin di ferro? Quante risate. E cosa, Cicco, non c'è più? Sarà fittendi. Cinco. E che dietro la magneti. Ora, te la metti la grattugia di Falcone. Come ne dici? La Giaudu, la grande, la che da passata era Giaudu, era una giuretta, era. Mi ha già mai dato di un ridente. Perché è vivo, Sì, è vivo, abita a Sorso. E Piero Drago gli dia cosa, mangiasse un po' di brodino di povero di marmo. E a chi era amico di Diego, era, di suo fratello. Andavano a Ruoccio Filo in pari con Diego. E quindi si conoscevano con Piero. E ne dice tutti di curore, poi pure Rubardi arrabbiati su Piero. Anche la mamma è entrata una volta. E tu cosa Piero? E Piero ha detto, signora, faccia brava, siamo con lì, e scende la mutanda e le faccio scolaccioni. Tutti ridenti. Signora Italia. Coglioni! Ma Colino Gondor lo fa di Ren. Coglione! Ma vuoi essere sulla casa tua? Coglione! Ma ti faccio squillare un telefono? Ti piombo di telefonate! No, aspetta, questo è stato un telefono, era coso, anche la ignogno, eh? Faccio stirare il telefono. Rumolacco. Anche la ignogno, faccio stirare il telefono. E il semaforo, lo gli ho effe. Però era anche una compagnia da un passatempo, dai. Ma veramente, a parte di scherzi. Oggi noi ci siamo addormentati, ascoltando i suoi passaggi. Questo metteva l'elastico che era portante. Perché i passaggi di ore, ore, ore, va vedete, va vedete, va vedete. Ma siete pirri. E dopo io sa che pira molto, tutti i canali occupati, vero? E quanta gente viene in ascolto? Tutti i canali, tutti e 40 canali, tutti occupati, erano. A me la cantera la gente, né? E invece aveva due canali solo, il 10 e il 23, quando c'è gente nel 10. E c'erano le ruote, no? Ogni ruota c'era il suo canale. E poi dicevano se andava in volo, nero 65, nero 30, nero 70, nero 55, nero 45. Sì, ma il caso era il 41, no? Era il 40 spostato di uno, sul 41, 42. Sì, e io che li hai innamorati. 41 e 42. Noi sotto multipli. sì, nei canali alti. No, i canali alfa più. Lei si sono mischiati peggio qua. Ben tempi, ma quasi risalto, ma veramente ben tempi, porca puttana, bella infanzia là. E a quei tempi avevo 18 anni. Quante risalte? Adesso ho messo la frequenza, è diminuita di un be. Adesso è inventato il canale dei morti, come dice Natalino. No, non è questione di crisi e cose uguali, è questione che adesso piace poca gente, e i pochi che entrano entrano a mettere la portata, tipo quel mongoloide che sono di tanto, capito? Ma in realtà io sto sempre ascoltando, no? Molto poco, però ascolto. È un mongoloide che mi mette la portata, ma perché? Ma c'è problemi mentali, cazzo c'è? È poeta cirurgia. Io niente, qualche volta accendo, non sono ogni giorno che c'è il baracchino, spazio, guardo, e oggi ero su 10, fischiato, c'era Marcolino e ci siamo sentiti con Marcolino. E poi sono entrato, c'era anche Natalino, l'ascolto, e piano piano sono entrato un po' di persone, capito? E niente, Gianni è sparito la circolazione, e vuole che entrasse anche Gianni, invece Gianni è sparito, non entra più. A me lì. Vabbè che lui si è preso il vizio adesso di cantare, ci mette le cuffie e ciccia, perché lo telefono e manco ti riponde. Stamattina stava parlando con me con Giulio, a un certo punto è marito non l'avevano mai ucciso. Aveva fatto una fumata, questo è te. Ma cosa ne so qui? Ma c'era Marcolino adesso, cazzo, parlando con me con Tonino, è sparito anche lui. Ma che diavoli, c'è anche lui? No, stamattina stavo parlando con me e con Giulio, stavo parlando, non è stasera, no, stamattina già, ma a un certo punto è sparito e non abbiamo più sentito né io né Giulio. C'era 120.000, 50.000 a rimediare con qualche popolo di crema. E se no che è andato sull'Arrigo mi ha pigliato questi bombi pieni di crema, cosa ne dico lì? A te sto parlando al telefono di nuovo. Papà da innamorato. Ehi, Tonino è innamorato, bisogna scusarlo, gatta, perché quella lì lo telefona e gli dice ma mi ami? Ma quanto mi ami? Ehi, che si fa? Ma io sui certi ore maravina lo darei. Beato lui che ti ho vincendo. Ma canto canto tanto siete maliziosi, quanto ti amo, Natali, ma io cosa penso? Che sia così? No, io sono più bravo, dai. Tonino è più manno di me. Ma cosa cazzo? Che così a occhio c'è la modulazione, io me la cavravo. Massimo una trentina d'anni, là. Forse non si deve chiare. Caro io ne ho compiuto e non mi nascondo. Il 28 settembre 69 anni. Cavolta, e beh, bevo qua più di 10 anni in meno. Cazzo, faccio una vita movimentata, Adria, fa carità. Non so come vemmo. Comunque non me ne dà nessuno l'età che c'ho. Così a occhio per me sei sui 30-40 anni. Per me, pure. Ma tu sei da molto che non mi vedi, Adria. Io invece non sono mai visto. Adesso non mi hai mai visto. Ma tanto mai. Sai che ci siamo visti. Io già ti ho visto a te, se vuoi ti descrivo pure, mi. Ma non sai che sinceramente fa del visto. Io non ho idea di chi sei, di chi sei. Tu non ti ricordi, ma tantissimo tempo fa, oh, dico pure con chi parlavo una sera, la notte, con una certa persona femminuccia. Sì, io con chi parlavo, tutti i venti, ed è un funzionario. C'hai i capelli mossi, c'hai gli occhiali, altro vuoi sapere? Capelli mossi, io i capelli non li ho. L'avrei messa, ma dopo tanti anni, boh. Ma gli occhiali ce li hai? Sì, gli occhiali sì. Anche che mi stanno dietro sta cosa, noi ci siamo conosciuti. Allora, per caso in via Sorso. Via Sorso? Sì, per caso. Mi sta succedendo, sono curioso, io non ti ho presente. Quindi tu mi conosci, io non mi ricordo. Mai avevamo una greca con qualcun altro. non si lamenta, no, e cosa vuoi? Sono passati chissà cant'anni. Io molta gente lo stesso non me la ricordo, se non è che la vedo magari allora sì. E lui non si ricorda, ma ci siamo anche parlati tutto quanto, Magrolino, e io già me ne ammetto, dai. Sono passati tanti anni, ovviamente lui non si ricorda, non è che le do colpa, la vecchiaia carrogna. Sì, ma sono passati 40 anni, siamo stati gli anni 80. Ma guarda Andrea, sinceramente te lo posso dire che non mi ricordo neanche io in che occasione siamo conosciuti, ma ci siamo conosciuti. Figurati tu, dai, ho passato 40 anni. Il fatto è questo, che non è che ci siamo frequentati spesso e volentieri, con Natalino non c'è mai problema, capito? Si vede ogni tanto che non c'era problema. Ma con te poco, uno o due volte siamo visti, non di più, ecco perché sono passati 40 anni, giustamente come dici tu, e non è così facile ricordarsi, mio in particolare, io veramente non me lo ricordo. Tutto qua. Allora, aspetta, ti posso dire un'altra cosa, che mi ricordo. Ti ricordi che tu parlavi con cosa? Osservatore maestrale, Branca. Yes. E non ti aveva regalato una famosa tuta che lui aveva, che gli avevano regalato, di macchina da corsa? A Volga, ce l'ho ancora. La tuta da meccanico della... E come faccio a ricordare queste cose qua io? Vedi? Lo so, io mi ricordo, ho una memoria buona di ferro, capito? Solo in particolare che ci siamo conosciuti non me lo ricordo con esattezza. Vi ricordo via sorso, quello sì. Ma 5 minuti, non di più, che io ero di fretta, tu lo stesso vuoi fare cose, quanti mie, siamo conosciuti. Sono passati anni, comunque c'è ragione, e anche troppo che io ricordo tutte queste cose qua particolari, perché ripeto, ci sentivamo a baracchino, ci siamo sentiti parecchie volte, eccetera eccetera. Poi tu andavi in disparte su un altro canale e parlavi con l'amica tua, tutto qua. Dico anche, vabbè, se vuoi, ma non c'è bisogno di dirlo, chi era la ragazza con cui parlavi? Io parlavo con tante ragazze, no, beh sì, parlavo con la montagna di Instagram, la vita. Era una della Teolce, per il mondo. Sì, non era la Teolce, dai. Guarda, Andrea, quando ci troviamo, quando passo quelle zone che chiamata io, ci beviamo un caffè, poi ci vediamo e poi ti dico altri particolari che tu poi dirai, adesso forse ricordo, piano piano, ma è così. Ah, mi sei fatto ricordare quei tempi, porca puttana, ma veramente quei tempi. Cappa. Allora, che per dire modulava anche Romeo 33, il cieco, nonché la Dinizzi, via Sorso. Mio vicino di casa, sì. Io c'era Pisa, quello non vedete, Santa Puttana. Penso che ho parlato di più di 40 anni fa. Vedi, io perché ti ho conosciuto, mi c'è casa tua via Sorso. Vedete, porca puttana, quasi ricordi. Ti ricordi che ti facevano le chiacchierate la notte, facevano le ruote, le risate, era veramente piacere, anche le televisioni. Sì, poi si faceva anche Portobello, scambio di cose su Canale 15, Torre Shopee, io, Piero Drago, e uia. No, ma poi c'erano anche gli incontri, no? Facevamo le... ci dovevamo appuntamenti, ci trovavamo in un tal posto. Ricordo questi del Bar Campari. Io mi chiamo Campari, che però è tutti vedi che molte cose io me le ricordo. E va bene, dai, non c'è problema, Adriano, già ci vediamo, ci beviamo un bel caffè, così scordiamo i vecchi tempi. Ok? è bello ricordare i vecchi tempi, dai, sono cose passate, c'era più gente, era diverso, dai, adesso invece siamo tagliati, manco gli altri entrano, è un casino, infatti la taglia per così dire, e lo canale muschia, che non è nessuno, a me mi ha detto Gianni, no, dice, sai cosa è d'estate, andiamo sempre in giro, fa caldo e entriamo un po' a baracchino, ma vanno, vai, chi tu gancio, e va, entrano, non entra nessuno, ma te, senza specialmente non entra, e vabbè, si è dato la musica, l'ha fatto gioia, e fa, forse vuole andare a Castrocaro a cantare. Avanti Natalì. Sì, ma che c'è ognuno, ma la paramazione suia. Allora voi ti dica, se io mi ho fatto il ripolo mi adesso. Sì, però i cambi. In un altro. Ognuno c'ha la passione sua, si è pigliata questa canzone, si ha passione di cantare e quindi sta più cantando che al maracchino. E allora, vabbè, io non dico per niente, così lo devo telefonare per fare il baracchino, non dico per nulla io. Avanti Adriano. Un attimino, mi sto spostando io. Non ci risentiamo. Caffa, ciao autore, dai. Grazie per le quattro chiacchiere. Scusa attore, c'era un tempo lasciato il pacchetto e c'era qualcosa con Adriano che mi aveva fatto ricordare i vecchi tipi, volevo farli ricordare dopo tantissimo tempo che ci eravamo conosciuti tutto qua, ma non è il fattore per lasciare il parcheggio, ti giuro. Ok, scusami attore. E di cosa? Ci risentiamo, ok, ciao a tutti. Ok, ciao attore, stai bene. Ciao attore, lo scusa. Lo so, ebbene, ma cosa mi chiamano i Kawasaki, che io schiaccio subito. Lascia Falcone e parti. Coglione! Questo qui devo telefonare. Non è bello che dove era Falcone che modulava nella finestra all'interno c'era un cortile e sotto abitava la ragazza e mio cugino, e a volte mi chiamava mio cugino e dice, ma cosa è stato fino a quel ragazzo, sempre la stridente voce, non sono io, no, lo fanno incazzare, faccio per lui roba del male. Casino. Che casino, una volta che si è andata c'era anche Maria Medue, c'era Giuseppe Fiucci, ce n'era Giancarlo Tucatucca, Roberto Marmera, ce n'era il Cimbiera, Piero La Ruota, era un'altra cosa, dai. Adesso invece siamo proprio due iatti, e qui che muovo due iatti, a volte non è. Comunque sono sicuro che Adriano c'è un po' di gente in ascolto, non ha voglia di entrare, ma ascoltala, quello, mi gioco quello che vuoi, che c'è parecchia gente, ma non gliene frega niente di entrare, mi piace ascoltare, vabbè, pazienza. Ciao a tutti, dai, tra una cosa e l'altra mi ero abbioccato e mi sono fatto un pisolino. State parlando di Paolettoni. Adriano non lo sa, ma c'è il sito, almeno c'era il sito con tutte le registrazioni, però non riesco più a trovarlo, è come se non fosse più online. Adriano, non mi copiano. Sì, che ti copia. Adri, ciao Marcolino di nuovo. Mi ero sentato che dovevo fare roba in fretta molto prima, poi mi sono abbioccato proprio. E poi, visto che c'ero, mi sono svegliato e mi sono mangiato un tiramisù, cosa che ti dica? Ciao Adriano! Marcolino! E andate a farci un caffè! Oh, sono qua che vado e vengo, dai! Va bene, Adriano ha chiuso, non so se ha sentito il pezzo. Il sito c'era una volta, adesso non riesco a trovarlo. No, dai, io adesso spiego per la di cucina, che mi preparo una scaldata che ho cucinato ieri, che era così buono. Ok, dai Marcolino, ci sentiamo. Ciao Adriano, ci ascolto, ciao Natalino e eventuali ascoltoni. Buon rettangolo da parte mia, ci sentiamo a domani. Ciao. ciao ciao, ripeti ancora. Ciao Tony, ciao, grazie per le quattro chiacchiere. E anch'io adesso devo mangiare fra un po', quindi me ne faccio inquiriti pure io. Ciao Marco, grazie per essere entrato. E ci sentiamo alle prossime, quelletti per me. Ciao a tutti, ciao. Buona serata. Ciao ciao.